Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Milady, dominata da un terrore indicibile, sedette senza proferire parola. Siete dunque, disse Athos, un demonio mandato sulla terra. Il vostro potere è grande, lo so, ma sapete pure che con l'aiuto di Dio gli uomini hanno spesso vinto i terribili demoni. Voi vi siete già trovata sulla mia strada. Credevo di avervi annientata, ma o mi ingannavo o l'inferno vi ha risuscitata. A quelle parole che le richiamavano ricordi spaventosi, Milady chinò il capo con un sordo gemito. Sì, l'inferno vi ha risuscitata, riprese Athos. L'inferno vi ha fatta ricca. L'inferno vi ha dato un altro nome. L'inferno vi ha quasi rifatto un altro volto, ma non ha cancellato né le sozzure della vostra anima né il marchio del vostro corpo. Milady si alzò come spinta da una molla. I suoi occhi lampeggiarono. Athos restò seduto. Mi credevate morto, non è vero? Come io credevo morta voi. E questo nome di Athos aveva celato il conte di La Fère, come il nome di Lady Cleric aveva celato Anne de Bray. Non vi chiamavate così quando il vostro onorato fratello ci ha sposati. La nostra situazione è davvero strana, proseguì Athos ridendo. Siamo vissuti fino ad ora l'uno e l'altro soltanto perché ci credevamo morti. E un ricordo talvolta è meno importuno di una creatura, benché talvolta un ricordo sia una cosa ossessionante. Ma insomma, disse Milady con voce soffocata, chi vi riconduce a me? E cosa volete? Voglio dirvi che, pur restando invisibile ai vostri occhi, non vi ho perduta di vista io. Sapete quello che ho fatto? Posso raccontarvi giorno per giorno le vostre azioni, da quando siete entrata al servizio del cardinale fino a stasera. Un sorriso incredulo sfiorò le pallide labbra di Milady. Sentite. Siete stata voi a tagliare i due puntali di diamanti sulla spalla del duca di Buckingham. Siete stata voi a far rapire Madame Bonacieux. Siete stata voi, innamorata di De Vardes e credendo di passare la notte con lui ad aprire la porta a Monsieur d'Artagnan. Siete stata voi, credendo che De Vardes avesse ingannata, a tentare di farlo uccidere dal suo rivale. Siete stata voi, quando questo rivale ha scoperto il vostro infame segreto, a tentare di farlo uccidere a sua volta da due sicari che gli avete messo al fianco. Siete stata voi, vedendo che le pallottole avevano fatto cilecca, a mandare del vino avvelenato con una falsa lettera per far credere alla vostra vittima che il vino proveniva dai suoi amici. Infine voi, in questa stanza, seduta su questa seggiola dove io siedo, avete poco fa preso l'impegno con il cardinale di Richelieu di far assassinare il duca di Buckingham, in cambio della promessa data a voi dal cardinale di lasciarvi assassinare d'Artagnan. Milady era livida e disse, «Ma siete Satana, voi?» «Forse», disse Athos. Ma in ogni caso, ascoltatemi bene. Assassinate o fate assassinare il duca di Buckingham, poco mi importa. Non lo conosco, per giunta è un inglese. Ma non toccate neppure con la punta di un dito un solo capello di D'Artagnan, che è un fedele amico a cui voglio bene e che difendo, oh, ve lo giuro, sulla testa di mio padre, il delitto che avrete commesso sarà l'ultimo. Monsieur d'Artagnan, disse Milady con voce sorda, mi ha crudelmente offesa. Monsieur d'Artagnan morrà. Ma è veramente possibile, offendervi, signora, disse ridendo Athos. Vi ha offeso e morrà. Morrà, ripeté Milady. Prima lei, poi lui. Athos fu colto come da una vertigine. La vista di quella creatura, che non aveva nulla di una donna, risvegliava in lui terribili ricordi. Pensò che già una volta, in una situazione meno pericolosa di quella presente, egli aveva voluto sacrificarla al suo onore. La brama di uccidere gli ritornò bruciante e l'invase come una febbre ardente. Si alzò a sua volta, portò la mano alla cintura, ne trasse una pistola e la caricò. «Signora», disse, «mi consegnerete immediatamente il foglio firmato dal cardinale, o sulla mia anima vi faccio saltare le cervella». Con un altro uomo, Milady avrebbe potuto conservare qualche dubbio, ma conosceva Athos. Tuttavia non si mosse. «Avete un secondo per decidere», egli disse. Dalla contrazione di quel viso, Milady capì che il colpo stava per partire. Si portò in fretta la mano al seno, ne trasse un foglio e lo tese ad Athos. «Tenete», disse ella, «e siate maledetto». Athos prese il foglio, rinfilò la pistola alla cintura, si accostò alla lampada per accertarsi che fosse proprio quello, lo spiegò e lesse. «Su mio ordine e per il bene dello Stato, il latore della presente ha fatto ciò che ha fatto. 3 dicembre 1627, Richelieu». «E adesso», disse Athos riprendendo il mantello e calcandosi di nuovo il feltro sulla testa, «adesso che ti ho strappato il dente, vipera, mordi se puoi». E uscì dalla stanza senza neanche voltarsi indietro. Alla porta trovò i due uomini che tenevano il cavallo per le briglie. «Signori», disse, «l'ordine di Monsignore lo sapete, è di condurre questa donna senza perdere tempo al forte di La Pointe e di non lasciarla finché non sarà a bordo». E poiché tali parole concordavano con l'ordine ricevuto, quelli chinarono il capo in segno di assenso. Quanto ad Athos, balzò in sella agilmente e partì di galoppo. Però, invece di seguire la strada, prese per i campi, spronando forte il cavallo e fermandosi di tanto in tanto ad ascoltare. In una di quelle soste udì sulla strada lo scalpitio di parecchi cavalli. Fu certo che si trattava del cardinale e della sua scorta. Subito fece un'altra puntata avanti, stropicciò il cavallo con eriche e foglie di albero e venne a piantarsi sulla strada di traverso a circa 200 passi dal campo. «Chi va là?» gridò di lontano quando scorse i cavalieri. «Mi pare che sia il nostro prode moschettiere», disse il cardinale. «Sì, monsignore», rispose Athos, «è proprio lui». «Monsieur Athos», disse Richelieu, «abbiatevi tutti i miei ringraziamenti per la buona guardia che ci avete fatta. Signori, eccoci arrivati. Prendete la porta a sinistra. La parola d'ordine è roi e re». Così dicendo, il cardinale salutò con il capo i tre amici e prese a destra, seguito dallo scudiere, perché quella notte anch'egli dormiva al campo. «Dunque», dissero insieme Porthos e Aramis quando il cardinale fu fuori della portata della voce, «dunque ha firmato il foglio che lei voleva». «Lo so», disse calmo Athos. «Eccolo qui». Accanto suo Milady, come Athos aveva previsto, trovando alla porta gli uomini che l'aspettavano, li seguì senza batter ciglio. Per un attimo aveva pensi provato il desiderio di farsi di accompagnare dal cardinale per raccontargli ogni cosa, ma una rivelazione da parte sua avrebbe portato a una rivelazione da parte di Athos. Lei avrebbe detto che Athos l'aveva impiccata, ma Athos che se era bollata col marchio. Pensò che fosse meglio tacere, partire senza chiasso, compiere con la sua solita scaltrezza la difficile missione che si era assunta, poi, compiuta ogni cosa con soddisfazione del cardinale, venire a esigere la sua vendetta. Di conseguenza, dopo aver viaggiato tutta la notte alle 7 del mattino, ella era al forte di La Pointe, alle 8 era a bordo e alle 9 il bastimento, che con il visto del cardinale aveva il permesso di partire per Baiona, levava le ancore e faceva vela per l'Inghilterra. Arrivato dai suoi tre amici, D'Artagnan li trovò riuniti nella stessa stanza. Athos rifletteva, Porthos si arricciava i baffi, Aramis pregava tenendo tra le mani un grazioso breviario rilegato di velluto azzurro. «Per Dio, signori!» disse. «Spero che ciò che avrete da dirmi sia importante, altrimenti vi avverto che non vi perdonerò di avermi chiamato qui, invece di lasciarmi riposare dopo una notte passata a conquistare e a smantellare un bastione». «Ah, perché non c'eravate, signori? È stata una cosa infernale!» «Eravamo altrove, e neppure là era un paradiso», rispose Porthos, imprimendo ai baffi una sua piega speciale. «Shh!» disse Athos. «Oh, oh!» fece D'Artagnan, che capì il lieve aggrottare di ciglia del moschettiere. «A quanto pare ci sono novità!» «Andiamo al Parpaillot», disse Athos, «perché qui i muri sono fogli di carta». Giunsero all'osteria del Parpaillot. Erano le 7 del mattino, cominciava a farsi giorno. I quattro amici ordinarono la colazione ed entrarono in una sala dove, a detta dell'oste, non sarebbero stati disturbati. Purtroppo l'ora era mal scelta per un conciliabolo. Era appena suonata la diana, ognuno si scrollava di dosso il sonno della notte e per scacciare l'umidità del mattino veniva a bere un bicchierino all'osteria. Dragoni, svizzeri, guardie, moschettieri, cavalleggeri si succedevano con una rapidità che certo giovava agli affari dell'oste, ma scomodava assai i piani dei quattro amici. Pertanto essi rispondevano con una certa ruvidezza ai saluti, ai brindisi e ai frizzi dei camerati. «Su via», disse Athos, «finiremo per impegolarci in qualche baruffa, in questo momento non ne abbiamo bisogno. D'Artagnan, raccontateci la vostra nottata. La nostra ve la racconteremo dopo». «Difatti», disse un cavalleggero che si dondolava tenendo in mano un bicchiere e centellinava adagio dell'acquavite, «infatti stanotte voi delle guardie eravate in trincea e mi pare che i roccellesi vi abbiano dato del filo da torcere». D'Artagnan guardò Athos per sapere se dovesse rispondere a quell'intruso che si inframmetteva nella conversazione. «Beh», disse Athos, «non senti che Monsieur de Busigny ti fa l'onore di rivolgerti la parola? Racconta quello che è successo stanotte, poiché questi signori desiderano saperlo». «Non avete preso un pastione?» domandò uno svizzero che beveva del rum in un boccale di birra. «Sì, signore», rispose D'Artagnan inchinandosi. «Abbiamo avuto questo onore, anzi, come avrete saputo, abbiamo introdotto sotto uno degli angoli un barile di polvere che, scoppiando, ha prodotto una bella breccia. Senza contare che, siccome il bastione non è di ieri, tutta la fortificazione è rimasta sconquassata». «Di quale bastione parlate?» domandò un dragone che teneva infilzata sulla sciabola un'oca che portava lì da cuocere. «Del bastione Saint-Gervais», rispose D'Artagnan, «da dietro il quale i roccellesi disturbavano i nostri terrazzieri». «È stato duro lo scontro?» «Ah, ma sì, noi ci abbiamo rimesso 5 uomini e i roccellesi 8 o 10. «Signori», intervenne Athos, «una scommessa». «Ah, sì, una scommessa!» disse lo svizzero. «Quale?» domandò il cavalleggero. «Aspettate», disse il dragone, appoggiando la sciabola come uno spiedo sui due grossi alari di ferro che sorreggevano il fuoco del camino. «Ci sto anch'io, oste della malora! Qua subito una leccarda, che io non perda una goccia del grasso di questo stimabilissimo volatile!» «A fer ragione!» disse lo svizzero. «Il grasso ti occa è buonissimo con le coffiture!» Ci siamo, disse il dragone. Adesso sentiamo la scommessa, siamo tutto orecchi, Monsieur Athos. Sì, la scommessa, disse il cavalleggero. Dunque, Monsieur de Busigny, scommetto con voi, disse Athos, che i miei tre compagni, Monsieur Porthos, Monsieur Aramis, Monsieur d'Artagnan e io, andremo a far colazione al bastione Saint-Gervais e ci resteremo un'ora, orologio alla mano, qualsiasi cosa faccia il nemico per sloggiarci. Porthos e Aramis si guardarono, cominciavano a capire. Ma, disse D'Artagnan, accostandosi all'orecchio di Athos, ci farai uccidere senza misericordia. Saremo altro che uccisi se non ci andiamo, rispose Athos. Ah, in fede mia, signori, disse Porthos, buttandosi indietro sulla sedia, arricciandosi i baffi. Ecco una bella scommessa, spero. Infatti l'accetto, rispose Monsieur de Busigny. Adesso si tratta di fissare la posta. Voi siete quattro signori, fece Athos. Noi siamo quattro. Un pranzo a discrezione per otto. Vi va? A meraviglia, ribatté Busigny. Perfetto, disse il dragone. Mi fa, disse lo svizzero. Finché furono entro la cinta del campo, i quattro amici non scambiarono parola. D'altronde li seguivano i curiosi che, al corrente della scommessa, volevano sapere come se la sarebbero cavata. Ma una volta varcata la linea di circonvallazione e trovatisi all'aperto, D'Artagnan, il quale era completamente all'oscuro di che si trattasse, credette giunto il momento di chiedere una spiegazione. Adesso, mio caro Athos, disse, fatemi la cortesia di dirmi dove andiamo. Ma lo vedete, disse Athos, andiamo al bastione. Ma cosa ci andiamo a fare? Lo sapete benissimo. Ci andiamo a fare colazione. Ma perché non l'abbiamo fatta a Papillon? Perché abbiamo cose importantissime da dirci. Ed era impossibile discorrere 5 minuti in quella locanda con tutti gli importuni che vanno, vengono, salutano, si avvicinano qui almeno, continuò Athos additando il bastione, nessuno verrà a disturbarci. Sì, disse Aramis, Athos ha ragione. Animad vertuntur in desertis. Un deserto non sarebbe andato male, commentò Porthos, ma bisognava trovarlo. Non esiste deserto dove un uccello non possa volare sopra il capo, dove un pesce non possa guizzare fuori dall'acqua, dove un coniglio non possa fuggire dalla tana. E credo che uccello, pesce, coniglio, tutto è diventato spia del cardinale. Meglio quindi continuare la nostra impresa, davanti alla quale d'altronde non possiamo più indietreggiare senza disonore. Abbiamo fatto una scommessa che non potevamo prevedere e della quale sfido chiunque a indovinare la vera causa. Per vincerla terremo un'ora il bastione, o saremo assaliti o non lo saremo. Sì, disse D'Artagnan, ma ci buscheremo di sicuro una pallottola, mio caro, ribatté Athos. Sapete pure che le pallottole più temibili non sono quelle del nemico. Ma mi pare che per una spedizione del genere avremmo almeno dovuto portarci dietro i moschetti. Siete uno sciocco, amico Porthos. Perché caricarci di un peso inutile? Non trovo inutile di faccia al nemico, disse Porthos, un buon moschetto, 12 cartucce e una fiaschetta di polvere. Ma dunque, disse Athos, non avete sentito quello che ha detto D'Artagnan? Cosa ha detto D'Artagnan? D'Artagnan ha detto che nell'attacco di stanotte sono stati uccisi 8 o 10 francesi e altrettanti roccellesi. E allora? Non c'è stato tempo di spogliarli, non è vero? Visto che per il momento c'era qualcosa di più urgente da fare. Ebbene? Ebbene? Troveremo i moschetti, le fiaschette della polvere, le cartucce, e invece di 4 moschetti e 12 pallottole avremo 15 di fucili e 100 di colpi. Oh, Athos, disse Aramis, sei davvero un grand'uomo. Giunti al bastione, i quattro amici si voltarono. Più di 300 soldati di ogni arma erano radunati alla porta del campo. In gruppo a parte si potevano distinguere Monsieur de Busigny, il dragone, lo svizzero e il quarto scommettitore. Athos si tolse il cappello, lo mise sulla punta della spada e l'agitò in aria. Tutti gli spettatori gli resero il saluto, accompagnando questa cortesia con un poderoso urrà che giunse fino a loro.